Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. Gli ultimi dati sull'esodo dall'Italia, a cura della Fondazione Migrantes, aprono oggi la nostra puntata che torna a parlare di ricerca con una storia che arriva fresca dagli Stati Uniti. Storia di una giovane scienziata che oltreoceano ha realizzato una scoperta che ha avuto un importante eco internazionale. Menzione d'obbligo invece per il Sound System, gruppo pugliese che ha aperto la puntata con Sto tornando, canzone che allude al ritorno nella propria terra dei giovani del sud, a cui, dicono gli autori del brano, è stato negato il futuro. La frase della settimana è copyright della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sono orgogliosa che tanti giovani italiani ce la facciano nel mondo, ma rappresentando lo Stato mi sento a disagio perché a quei ragazzi non posso dire che è tempo di tornare oggi, li ingannerei. Dobbiamo capire che abbiamo le carte in regola per farli tornare e per dare a chi sta qui e crede a questa scommessa la possibilità di farcela. Vi prego di andare avanti puntando su giovani e innovazione, così la Boldrini. Il piano Garanzia Giovani è uno strumento ottimo per combattere la disoccupazione. Dobbiamo pensare di estenderne il campo di applicazione e di prolungarlo, così il vicepresidente designato della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis. In Italia adesione sopra quota 230.000 e in una settimana dominata dal tema lavoro col summit di Milano, vi segnaliamo l'allarme del direttore generale dell'FMI Lagarde, 74 milioni di giovani sono senza lavoro nel mondo. Menzione d'obbligo anche per l'interessante iniziativa I Migliori Davvero, che indaga sogni e prospettive dei giovani studenti universitari. Tra i commenti raccolti vi segnaliamo quello di Vincenzo, 25enne studente di ingegneria napoletano. Non so se la mia carriera professionale sarà in Italia o all'estero, ma sono sicuro che se vogliamo aiutare il nostro paese a migliorare, dobbiamo avere un'esperienza che in questo momento l'Italia non ci permette di fare. Sono pronto a partire per crescere professionalmente e tornare per portare il nuovo qui. L'hashtag è I Migliori Davvero. La mancanza di burocrazia e il fatto che ti rendi conto che sarà una buona idea, riesci a spingerla, riesci a portarla in alto e le persone sono disposte ad aiutarti. Katia Bertoldi, 36 anni e docente di ingegneria meccanica ad Harvard, nonché autrice di una scoperta che l'ha portata alla notorietà nel mondo scientifico mondiale. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. In apertura gli ultimi dati del rapporto Italiani nel mondo, edizione 2014, un rapporto che denuncia come, con l'approfondirsi della crisi in Italia, l'emigrazione del paese stia perdendo i contorni che l'avevano maggiormente connotata recentemente. Non se ne vanno più dalla penisola solo i più giovani e i più qualificati. La fuga dall'Italia, silenziosa e crescente, contagia ormai anche altre fasce di età. Come spiega a Giovani Talenti Delfina Licata, caporedattrice e curatrice del rapporto Italiani nel mondo. Sono quasi 4 milioni e mezzo i connazionali iscritti all'anagrafe all'inizio del 2014. Siamo andati a vedere nel corso del 2013 il flusso appunto degli italiani che hanno lasciato il territorio italiano e siamo a oltre 94.000 connazionali. Pensate che nel 2012 erano quasi 79.000, quindi una crescita in un anno del 16%. Concentrando l'attenzione su questo flusso dell'ultimo anno, vediamo che è un flusso prettamente maschile, il 36% ha tra i 18 e i 34 anni e quasi il 27% ha tra i 35 e i 49 anni. Per quanto riguarda i flussi dell'ultimo anno, i paesi che vanno per la maggiore sono il Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e poi andiamo oltreoceano con l'Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti, ritorniamo in Europa con la Spagna, il Belgio e poi ancora oltreoceano con l'Australia. Ma di che flussi parliamo? Pensate che nel Regno Unito nell'ultimo anno ci sono andati circa 13.000 nostri connazionali, in Germania 11.700, in Svizzera poco più di 10.000. Da dove sono partiti? Sono partiti dal nord più di 47.500, dal centro quasi 16.600, dal sud più di 30.000. C'è qualche novità però, se vogliamo, rispetto al recente passato? Le novità è sicuramente dei numeri molto più consistenti. Una cosa molto importante è che aumenta anche la percentuale di quelli che partono dall'Italia con età superiori ai 50 anni, come a dire effettivamente che la crisi comprende sia coloro i quali si affacciano purtroppo a 35 anni al contesto lavorativo, oppure coloro i quali hanno perso il lavoro e cercano appunto di trovare una situazione alternativa e non trovandola in Italia la trovano all'estero. Intanto, secondo la Commissione europea, erano 677.000 gli italiani a lavoro in un altro paese dell'Unione nel 2013. In termini assoluti ci superano solo rumeni e polacchi. Siamo terzi però anche per ricezione di lavoratori europei, 792.000 unità dietro Germania e Gran Bretagna. Germania, Austria, Belgio e la Scandinavia sono le aree che presentano la maggiore attrattività. Secondo Bruxelles, 4 lavoratori espatriati su 10 hanno ormai una laurea. Sono aperte le iscrizioni alle selezioni per studiare all'estero con Intercultura per il prossimo anno scolastico. 1.800 i posti disponibili per 60 destinazioni in tutto il mondo. Oltre 1 migliaio le borse di studio. Info su intercultura.it. Ricordiamo anche che proprio secondo Intercultura nelle scuole italiane cresce la voglia di fare esperienze di studio oltre confine. Nel 2014 oltre 7.000 studenti degli istituti superiori hanno varcato la frontiera, più 55% rispetto a 3 anni fa. E scade dopodomani il termine per candidarsi alla Call Alimentaccio Talent del Comune di Milano, che si propone di rendere il capoluogo lombardo un centro innovativo nei settori agroalimentare e delle scienze della vita. La Call intende valorizzare la formazione di team misti con professionisti italiani all'estero e giovani residenti in Italia. Info su alimentacciotalent.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti, East Coast per la precisione. Lo facciamo per raccontarvi la vicenda di una delle nostre giovani scienziate più promettenti oltreoceano. Nome: Tatia. Cognome: Bertoldi. Età: 36 anni. Città di origine: Trento. Studi: ingegneria civile. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Boston, MIT. Perché? Ho ricevuto un'offerta per un postdoc. Quale lavoro svolge attualmente? Sono professore associato ad Harvard. Tornerai? Chi lo sa? Non avevo neppure cominciato a cercare qualcosa in Italia quando mi è stato proposto di andare all'MIT di Boston. Da quel momento ho più o meno sempre accettato la migliore offerta. Purtroppo questa non è mai arrivata dall'Italia, rifletti Katia. Lasciando perdere paragoni cinematografici, perché a tuo parere la penisola non è strutturalmente in grado di dare ai suoi giovani più promettenti questa migliore offerta che li stimoli a restare o tornare? Domanda non sicuramente facile. Dal mio punto di vista non ho mai provato a confrontarmi direttamente col mercato del lavoro in Italia, ma di sicuro quello che vedo è una certa lentezza e burocrazia che in qualche modo impedisce di far cogliere anche ai giovani le migliori opportunità. La tua storia, Kate, inizia con il sogno di fare l'architetto, poi convertito in un'iscrizione alla Facoltà di Ingegneria Università di Trento. Da dove arriva questa tua passione per la tecnica? Chi lo sa? Forse dal fatto che sono cresciuta circondata da bambini invece che da bambine? Può darsi. Dai, di la verità, questa domanda mi viene fatta abbastanza spesso, soprattutto ora che spinge ad avere più ragazze anche nel campo della tecnica. Di sicuro la cosa che posso dire è che nessuno mi ha mai contrastato questa mia passione per la tecnica. E questa è la cosa più importante, meglio lasciar seguire la propria indole. Nel 2002 ti laurei in ingegneria strutturale, il tuo personale voto all'università italiana da 1 a 10? 9, come studente 9, mi ha fornito un'ottima preparazione. E pochi mesi dopo approdi in Svezia per un master in ingegneria strutturale. Che ricordi ti ha lasciato questa esperienza scandinava? Si lavorava in gruppi più piccoli, quindi anche le lezioni eravamo una decina invece che un centinaio, quindi c'era più interazione anche col personale docente, più contatti anche col mondo reale, con un po' con l'industria, e in qualche modo in Svezia ho anche mosso i miei primi passi nell'ambito della ricerca, quindi ho dei bellissimi ricordi. E lo sbocco successivo per te è un dottorato in meccanica dei materiali e delle strutture ancora a Trento, che concludi nel 2006. Subito dopo sono partita per gli Stati Uniti, ricordi. Come si approda all'MIT, una delle università Sancta Sanctorum dell'universo accademico americano? L'inizio è stato un po' difficile. Da Trento, un'università molto piccola, l'MIT, quasi un gigante. Primo approccio, un ambiente molto diverso, un mondo quasi tutto in corsa. Inizialmente mi era stato detto che era molto competitivo, mi era stato anche detto che molto spesso c'erano delle lotte fra colleghi quasi per emergere. Di sicuro un mondo competitivo, ma ho visto anche tanta collaborazione, non ho visto nessuna lotta fra colleghi, ma tanta collaborazione per far emergere le proprie idee. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Una volta adattatemi, ho iniziato a divertirmi alla grande, ricordi con un po' di ironia. Qual è stato il fondamentale cambio di prospettiva che hai sperimentato oltreoceano, Katia? La mancanza di burocrazia, il fatto che ti rendi conto che sarà una buona idea, riesci a spingerla, riesci a portarla in alto e le persone sono disposte ad aiutarti e a dare risorse perché questa idea possa emergere. Questo è ancora una volta una questione culturale, dovremmo veramente imparare dall'America sotto questo punto di vista. Un anno dopo cominci a fare domanda per un posto da ricercatrice o assistant professor, ricevi offerte sia dagli Stati Uniti sia dall'Olanda e alla fine, contro il parere dei tuoi colleghi, opti per i Paesi Bassi. Perché? Motivi prettamente familiari. Mio marito Giovanni, passaporto italiano, non riusciva a trovare un lavoro nell'ambito industriale, la crisi qua picchiava, quindi era molto difficile trovare un lavoro nell'ambito industriale senza un passaporto americano, perché questo comportava per l'industria comunque ulteriori oneri per avere il visto lavorativo. E il tuo ritorno in Europa coincide con un profondo cambio di mentalità nell'organizzazione accademica, da un'impostazione anglosassone a una tedesca. Cosa non andava? L'impatto con un'organizzazione più gerarchica, di tipo tedesco, è stato abbastanza brutale, direi. Come giovane, di sicuro le opportunità che venivano offerte erano minori, perché tutto andava filtrato attraverso questa organizzazione di tipo gerarchico. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Katia Bertoldi, 36enne scienziata e docente di ingegneria meccanica presso la prestigiosa Università Americana di Harvard. Katia non ha lasciato l'Italia per necessità, non è fuggita come tanti altri suoi colleghi negli Stati Uniti, ma ancora oggi aspetta dalla penisola la migliore offerta. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Toglici però una curiosità, una volta tornata in Olanda, hai mai preso seriamente in considerazione, visto che ti eri riavvicinata, l'ipotesi di un rientro in Italia? Devo dire di no. Perché? Perché già stiamo parlando del 2009-2010, l'università italiana già stava attraversando un periodo abbastanza difficile, direi. E non c'era possibilità di nuovi inserimenti per i giovani e le condizioni non erano assolutamente buone o eccellenti, perlomeno non comparabili a quelle che comunque erano in Olanda. E così la svolta della tua vita professionale, l'ultima in ordine cronologico, è arrivata con un paio di offerte di lavoro, una delle quali da Harvard. In cosa consisteva questa offerta? Era un'offerta per una posizione di assistant professor, tenure track. Questo vuol dire che è un contratto di 6 anni, alla fine dei quali, se il tutto va bene, ti viene offerta una posizione permanente. Se il tutto non va bene, si torna sul mercato del lavoro. Meritocrazia allo stato puro, potremmo dire. Il pacchetto iniziale prevede anche dei fondi e delle risorse per poter iniziare un proprio gruppo di ricerca. Infatti tu dici, essere professore in un ateneo di prestigio come Harvard è favoloso. Fin dal primo giorno ho avuto completa mano libera, insieme all'opportunità di lavorare con studenti brillanti e motivati. Qui fin da subito sei a capo di un tuo gruppo di ricerca, come ci dicevi. Opportunità e finanziamenti, e questo ti chiedo, il mix vincente che rende gli atenei americani all'avanguardia nell'attrazione di talenti. Direi di sì. Il fatto che comunque si prende l'università americana è disponibile a correre un rischio, a investire nei giovani. Questo rischio molto spesso porta a ottimi risultati, altre volte porta anche a non così buoni risultati, ma sai, se si coglie il rischio bisogna essere anche disponibili a vincere e perdere. Attualmente sei professore associato di meccanica applicata ad Harvard e guidi un tuo gruppo di ricerca che studia la meccanica dei materiali e delle strutture. In questo contesto è anche maturata la scoperta che ti ha portato alla ribalta della comunità scientifica, l'emi-elica, difficilissima da spiegare, soprattutto in radio, ma proviamoci. In due parole, cos'è? L'idea principale, comunque, è quella di capire come si possono formare forme complesse a partire da forme veramente semplici e piane. Quello che abbiamo scoperto è che semplicemente aggiustando la forma della sezione di una strisciolina, di una strisciolina di gomma, di una strisciolina elastica, si possono ottenere una varietà di forme tridimensionali. E quello che speriamo è che queste scoperte portano anche a semplici strategie per fabbricare forme tridimensionali che quindi possano essere utilizzate poi per ottenere particolari proprietà. La tua storia, Katia, è finita sui giornali anche in Italia. Hai ricevuto feedbacks dalla nostra comunità scientifica? Sempre molto positivi. Sono stata contattata da molte persone, tutte mi hanno senza dubbio incoraggiato, molte anche mi hanno proposto suggerimenti per come migliorare le mie eliche, per cosa si poteva fare con le mie eliche. È stata una cosa molto interessante. Quindi all'altro capo del telefono qualcuno ha risposto, no? Potremmo dire, insomma, il tuo paese si è fatto sentire. Ti faccio la domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Quello che vedo è molta delusione, un certo senso di disfatta che mette molta tristezza. Quello che spero è che torni la voglia di lottare, perché in Italia ci sono molte cose positive su cui poter costruire, ma a questo punto il senso dominante è un senso di, direi, disfatta, poca voglia di lottare. Ci raggiunge ora in linea Serenella Sferza, co-direttrice del programma MIT Italy. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. La storia di Katia apre uno spaccato estremamente significativo sulla nostra comunità di scienziati negli Stati Uniti. Dopo oltre 30 anni di lavoro all'interno dell'MIT, lei come definisce questa comunità? Chi sono i nostri ricercatori, professori oltreoceano, ma soprattutto quali rapporti mantengono con l'Italia? I nostri ricercatori e professori vengono un po' da dovunque in Italia, da diverse discipline, molti in fisica, ma in matematica, in economia, ma davvero in tutti i settori e da molte università. Non sono sicura che si possa definire una comunità, perché mi sembra che i loro contatti principali siano con la comunità di approdo. Anche il suo percorso è stato segnato da un ponte Italia-Stati Uniti grazie al programma Fulbright. Da Milano all'MIT, poi una carriera che si è sviluppata tra Europa e Stati Uniti. E quanto si ritrova lei nelle considerazioni di Katia sulle differenze accademiche tra i due continenti? Beh, direi assolutamente. Mi ricordo una cosa che diceva il professor Franco Modigliani sulle motivazioni che attiravano gli italiani negli Stati Uniti, e lui diceva: non è solo una questione di soldi, ma è una questione di eguaglianza. Quando si arriva all'MIT, che è vero, è molto selettivo e meritocratico, come studenti si viene considerati come uguali. In Italia è ancora molto diverso. Questa è una differenza non da poco. L'MIT è stato il primo punto di approdo, lo abbiamo ascoltato, di Katia negli Stati Uniti. Proprio l'MIT è attivo il programma MIT Italy, di cui lei è co-coordinatrice insieme al professor Carlo Ratti. In breve, cos'è MIT Italy? MIT Italy è uno dei tanti programmi dell'MIT, ce ne sono 15, che l'MIT ha creato per favorire i propri studenti e docenti ad avere contatti internazionali. Quindi fa in un certo senso prima di tutto l'interesse dell'MIT, è però anche un ponte a doppio senso, perché chiaramente è difficile avere rapporti dall'MIT all'Italia senza averli dall'Italia all'MIT. In breve, quello che noi vogliamo fare è portare l'eccellenza italiana all'MIT e rendere l'MIT più accessibile all'Italia. Concentriamoci su due aspetti fondamentali, partendo con le partnership accademiche. Con chi funziona soprattutto questo interscambio? Con realtà singole e più evolute, oppure cominciate a intravedere anche dagli States un sistema Italia della ricerca? Io direi soprattutto con realtà singole, anche perché il nostro programma funziona in gran parte tramite fundraising, quindi noi dobbiamo raccogliere fondi per le nostre attività secondo il metodo americano, e quindi in un certo senso collaboriamo con chi se lo può anche permettere, o direttamente come università o come imprese, oppure raccogliendo fondi tramite fondazioni. Finora come università abbiamo i due politecnici di Milano e Torino e Pisa, e poi una varietà di imprese di tipi diversi. Secondo me ci sono realtà molto diverse nel sistema italiano ed è ancora difficile, almeno da lontano, identificare le eccellenze senza un lavoro davvero in profondità. E poi c'è l'altro aspetto, quello degli stage degli studenti dell'MIT presso le nostre imprese, i nostri laboratori e istituti di ricerca. Allora, qui parliamo di attrattività del sistema Italia, un problema che sta venendo anche molto a galla. Qual è il feedback che ricevete in questo senso? Che impressione hanno dell'Italia i giovani studenti americani che vengono qui? In genere le impressioni sono molto positive, devo dire che le mandiamo anche in posti molto selezionati, creiamo questi stage apposta per loro, si tratta sempre di stage che sono retribuiti, e quindi vuol dire che c'è anche un investimento di chi li accoglie. Sono molto impressionati in positivo da alcune realtà, un po' colpiti invece dalla mancanza di pianificazione e di organizzazione. Questo è un vecchio problema. Dalla notevole gerarchia che ogni tanto riscontrano all'interno delle realtà sia di impresa che università. Molto interessante. Questa gerarchia ci sta un po' troppo ammazzando, secondo me. Sì. Informazione pratica, Serenella, come collaborare con l'MIT Italy Program? A chi rivolgersi per chi fosse interessato? Sempre semplice, sì, a me, all'email del mio email dell'MIT, ssferza@mit.edu, c'è anche il website dell'MIT Italy Program che si può cercare sull'MIT e ci farebbe molto piacere allargare la nostra sfera di collaborazioni. Grazie, in bocca al lupo a Serenella Sferza. E domanda di rito a Katia Bertoldi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di non avere paura, di cercare di capire quali sono tutte le opportunità e poi semplicemente di scegliere la migliore. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una manager della comunicazione Europa per Boeing a Bruxelles, scadenza per CV 24 ottobre, info su jobs-boeing.com. Un ingegnere elettrico specializzato per Shell a Pernis in Olanda, scadenza per CV 25 ottobre, info su shell.com. E infine una cattedra in sistemi di volo alla Technische Universität di Dresda, scadenza per CV 16 ottobre, info su ferva.tu-dresden.de. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ci occupiamo di un sito web che, fra i tanti, fornisce informazioni e consigli agli italiani che cercano all'estero l'approdo ideale per lasciare un paese sempre più avaro di opportunità. Ne parliamo con Mohamed El Kouali, ideatore del sito Espatriati per Caso. Espatriati per Caso è nato subito dopo il mio arrivo in Francia nel 2011 per motivi di studio e a causa delle difficoltà riscontrate nel trovare, nel fare documentazione e motivi burocratici, ho messo tutto quello che è stata la mia esperienza qui in Francia sul come fare i documenti, come aprire un conto in banca, come affittare un appartamento e via dicendo. Ho pensato di condividere la mia esperienza. E poi hai ampliato la tua esperienza al resto dei paesi. Esattamente. Perché hai deciso di concentrarti proprio appunto sugli italiani espatriati? Sugli italofoni, più che altro. Sì. Perché esattamente come me, che mi sento italiano all'estero, che ho trovato parecchie difficoltà per motivi burocratici o per l'iscrizione a una determinata università o per cose simili, quindi ho voluto facilitare la vita ad altri che vogliono cercare questa avventura, insomma. Chi ti contatta e quali informazioni ti chiede? Molti mi chiedono, purtroppo a causa di questo periodo economico triste dell'Europa, mi chiedono offerte di lavoro, quindi io contribuisco da parte mia nell'aggiungere offerte di lavoro sia qua in Francia che in altre nazioni europee, e mi chiedono come, ad esempio, come poter andare in un determinato paese. Gli identikit sono giovani tendenzialmente, hanno titolo di studio? Di solito hanno mediamente tra i 20 anni e i 50 e vanno dall'operaio all'ingegnere. Tra l'altro offri anche delle guide in PDF sui paesi, un forum. Quanto si è allargata negli anni questa comunità che hai creato sul sito? La comunità è piuttosto, si sta allargando piuttosto velocemente, soprattutto negli ultimi tempi. E questo forum permette a tutti gli utenti di interagire tra loro e poter porre delle domande a chi prima di loro è già andato in un determinato paese, avere ad esempio un primo contatto per poter andare in un'azione. Vedo che c'è una emigrazione di massa in questi ultimi tempi che non sembra voler fermarsi, insomma. Io la definirei un'emorragia. Per maggiori informazioni potete cliccare su espatriatipercaso.com. Un motivo per restare o tornare. Per evitare la fuga dei cervelli all'estero e per incentivare l'assunzione di personale qualificato nelle aziende altoatesine, la giunta provinciale di Bolzano ha deciso di implementare una direttiva europea che prevede incentivi per questo settore. La provincia pagherà per 2 anni il 50% dello stipendio del personale con altissime qualifiche che le aziende assumeranno nel quadro dello sviluppo del know-how. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Riforma Lavoro. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di ottobre. La riforma del mercato del lavoro entra nel vivo. Stavolta ci credete? Basta una seria riforma del mercato dell'impiego per evitare la fuga all'estero? Come dovrebbe essere, secondo voi, questa riforma? E per frenare l'esodo di giovane capitale umano dall'Italia, cosa serve in più? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it.